GR24, il sole 24 ore. Raccoglievano le tasse per 400 comuni, ma le tenevano sul loro conto. Arrestati 4 dirigenti e l'amministratore delegato di Tributi Italia. Danni per oltre 100 milioni. Ancora perquisizioni in regione Emilia-Romagna e in Calabria. Indagata tutta la giunta. Blitz della finanza nelle sedi di Figici e Napoli. 40 persone morte in Siria nella serie di attentati ad Aleppo. Buona giornata dalla redazione di GR24, un saluto da Enrico Paglieri. Iniziamo dal nuovo scandalo che è stato scoperto oggi, ecco i particolari nel nostro servizio. Per conto di 400 comuni sparsi in mezza Italia, la società con sede legale a Roma e base operativa a Chiavari riscuoteva il denaro dei tributi. Il fiume di euro però non veniva convogliato nelle casse delle amministrazioni pubbliche, ma di fatto deviato nelle tasche di Giuseppe Saggese, amministratore di Tributi Italia. Così molti comuni, già con bilanci traballanti, arrivavano sull'orlo del dissesto finanziario, mentre sostengono procura di Chiavari e polizia tributaria, Saggese poteva permettersi una vita da nababbo. Aerei privati, feste hollywoodiane, vacanze da mille e una notte. Ora Saggese è in carcere in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare. Per 4 suoi collaboratori è scattato l'obbligo di dimora. Nel corso dell'operazione sequestrati beni per 8 milioni di euro. Il generale Antonino Maggiore è il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Genova. Viene contestato il reato di peculato. Riscuoteva l'ICI, la TAR, sulle altre entrate sono dei comuni a livello locale. Il peculato si configura perché queste somme, anziché essere riversate nelle casse comunali, venivano trattenute dalla società. È andata avanti così per anni, sottratte in tutto almeno 100 milioni di tasse, finché nel 2010 la società è stata dichiarata fallita sull'onda di decine di denunce da parte dei comuni rimasti a secco e per i quasi 1000 dipendenti di Tributi Italia si è aperta la strada del licenziamento. Andrea Ferro, Radio 24, Sole 24 Ore, Genova. Una storia, quella della Tributi Italia, che va avanti da oltre 10 anni e che, ribadiamo, ha causato danni per oltre 100 milioni di euro a carico di 400 comuni italiani. Siccome il pubblico non era efficiente, allora meglio affidarsi a un privato. Lo slogan era snello e apparentemente funzionante, se non fosse che queste società, a volte miste, cioè pubblico-private, negli anni si sono dimostrate disoneste e dannose a tal punto da portare quasi al collasso comuni come Aprilia, Pomezia, Bologna, Lecce, Rapallo. In tutto sono 400 i comuni coinvolti e che negli anni hanno segnalato al Ministero il mancato versamento delle somme riscosse dalla Tributi Italia S.p.A. Uno dei primi comuni a denunciare quanto avveniva fu quello di Aprilia, come ci racconta l'assessore al bilancio Antonio Chiusolo. Già nel 1999 presentai denuncia alla Procura della Repubblica, io. Ma perché? Allora, perché cosa c'era che non quadrava? Ma perché non si può fare dare la riscossione dei tributi all'esterno con il 30% di aggio su tutto, cioè anche le riscossioni volontarie. Perché non la può fare direttamente il comune questa riscossione? Perché gli amministratori dell'epoca avevano scelto questa cosa. Infatti adesso noi abbiamo rescisso il contratto con Tributi Italia appena, diciamo così, ci siamo insediati e la facciamo per conto nostro. Allora, Tributi Italia ha riscosso al comune di Aprilia dal 1999 al 2009, quindi 10 anni completi, e ci ha tutti i tributi, ICI, TARSU, TOSAP, ci ha riversato al netto dell'aggio 76 milioni di euro, quindi una media, diciamo così, di 7 milioni e 600 mila euro annui. Nel 2010 e 2011, che abbiamo riscosso per conto nostro, il comune sta riscuotendo in proprio, i 7,6 milioni sono diventati 25. Ma perché, nonostante le denunce, la Tributi S.p.A. non è stata chiusa? L'Associazione Comuni Italiani, l'ANCI, anni fa aveva chiesto 2 volte la cancellazione dall'albo della Tributi S.p.A. Perché non è avvenuto? Lo chiediamo a Chiusolo, che un'idea in qualche modo se l'è fatta. Questi vincevano sempre al TAR, vincevano sempre al COR. Loro hanno sempre avuto una grossa entratura nella magistratura, diciamo così, del TAR, del Consiglio di Stato, eccetera. I soldi che Saggese rubava ai comuni e quindi ai cittadini venivano spesi per vivere una vita da 10.000 euro al giorno. La beffa è che nel frattempo, la scorsa estate, gli oltre 1.000 dipendenti della Tributi S.p.A. cominciavano a scioperare perché non venivano più pagati. Tutta gente che oggi è stata licenziata dopo una breve cassa integrazione. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Continuano anche oggi in Emilia-Romagna le perquisizioni della Guardia di Finanza negli uffici dei gruppi consigliari dell'Assemblea della Regione su mandato della Procura, che indaga contro ignoti per peculato. Alcuni consiglieri, lo ricordiamo, avrebbero chiesto rimborsi chilometrici per il mese di agosto, quando l'Assemblea è chiusa. Una nota spese da 44.000 euro. Così si difende Luigi Villani, capogruppo PDL in Regione Emilia-Romagna, intervistato da Valentina Furlanetto. Noi abbiamo un badge per i consiglieri, timbriamo, e poi si fa l'incrocio fra questa timbratura e chi utilizza la propria autovettura con il telepasto dell'autostrada, quindi c'è il riscontro poi chilometrico. Quindi un via vai anche in agosto di consiglieri è possibile con l'assemblea chiusa? Questo è assolutamente possibile. Lei ci metterebbe una mano sul fuoco che nessuna di queste accuse della procura siano vere? Nessuno ha acquistato un SUV o si è preso una caldaia per il proprio appartamento, questo sicuramente no. Ci spostiamo in Calabria, i componenti della giunta regionale sono stati iscritti nel registro degli indagati. Con l'accusa di abuso d'ufficio, il sostituto procuratore di Catanzaro, Gerardo Dominiani, ha iscritto nel registro degli indagati l'intero esecutivo calabrese. Al centro delle indagini, la nomina di Alessandra Sarlo a dirigente regionale del Dipartimento Controlli. Sarlo, secondo l'accusa, venne nominata dirigente su pressione di Francesco Morelli, ex consigliere regionale della Calabria e amico di suo marito, del giudice Vincenzo Giglio, che in cambio gli avrebbe passato delle confidenze sulle indagini in corso nei confronti di un clan di Milano. Con questa accusa, lo scorso novembre, Morelli e Giglio sono stati arrestati su ordine della direzione distrettuale antimafia del capoluogo lombardo. Poiché la nomina di Sarlo è stata decisa collegialmente, tutta la giunta è ora sotto indagine. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E naturalmente vanno avanti le indagini su quello che accadeva in Regione Lazio. Rinchiuso in isolamento nel reparto riservato ai nuovi detenuti, Franco Fiorito ha passato la sua prima notte a Regina Coeli. Chi ha avuto contatti con lui lo descrive come tranquillo e su di tono dal punto di vista psicologico. Al personale del penitenziario romano non avrebbe fatto richieste particolari. In carcere forse troverò gente migliore di quella che c'è nel PDL, aveva detto ieri Batman subito dopo il suo arresto. Domani si terrà il suo interrogatorio di garanzia, al quale prenderanno parte il GIP Stefano Aprile, il procuratore aggiunto Alberto Caperna e il sostituto Alberto Pioletti. Fiorito, che anche ieri si è detto innocente, è accusato di peculato. L'ex capogruppo del PDL alla Regione Lazio avrebbe sottratto più di 1.300.000 euro dai fondi pubblici destinati al suo partito e avrebbe anche tentato di depistare le indagini distruggendo alcune fatture. A motivare il suo arresto ci sarebbe stato anche un pericolo di fuga e di reiterazione del reato. Nella lunga lista di spese folli che Fiorito avrebbe addebitato al gruppo del PDL c'è anche un fuoristrada da 33.000 euro comprato in fretta e furia nei giorni della grande nevicata che lo scorso febbraio aveva imbiancato la capitale. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Questa dunque è la situazione all'interno delle regioni, un quadro che abbiamo fatto con le ultime notizie, e a questo punto uno si domanda: a che punto è il famoso disegno di legge anticorruzione? Elisabetta Fiorito in diretta da Roma, buongiorno. Sì, buongiorno, una norma da inserire nel disegno di legge anticorruzione, queste sono le novità: i condannati in via definitiva sarebbero incandidabili da qualsiasi carica elettiva anche negli enti locali, sono 26 quelli che attualmente non siedono tra Camera e Senato, sarebbe pronta in una settimana dopo il via libera del Senato al provvedimento anticorruzione, quindi la chiave di volta, una delega per dare facoltà al governo di legiferare sull'annosa questione delle liste pulite. La norma è già contenuta nel provvedimento approvato dalla Camera, riguarda un decreto legislativo da approvare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge anticorruzione. Per il governo la parola d'ordine è fare in fretta in modo da rendere applicabili le prime norme riforme per le elezioni della Regione Lazio. Per l'Italia dei Valori non bisogna cedere a compromessi, ma bisogna fare subito una buona legge. Dice sì all'incandidabilità anche Roberto Maroni della Lega, ma non sosterremo emendamenti strani. La legge deve essere chiara. Per il PD la senatrice Silvia Della Monaca dice che i democratici sono favorevoli al testo passato alla Camera, anche ricorrendo al voto di fiducia. E per il momento qui da Roma è tutto per studio. E mentre i partiti litigano sul disegno di legge anticorruzione, ci si prepara naturalmente alle elezioni di primavera. Pressati dal sentimento dell'antipolitica, figlio delle tante inchieste sugli enti locali, il Popolo della Libertà e il Partito Democratico fanno fatica a proiettarsi verso l'appuntamento del rinnovo del Parlamento della prossima primavera. Non credo affatto nella genericità della richiesta di azzeramento dei vertici del partito, che vuol dire tutto e nulla, dice dal PDL Cicchitto. In un momento di grande difficoltà e attacco, aggiunge, bisogna rimanere uniti, perché se il PDL si sfarina finisce il centrodestra. L'incertezza, secondo fonti ben informate, regna tuttavia sovrana in via dell'umiltà: chi candidare alla Regione Lazio, chi al Campidoglio, come comportarsi a livello nazionale sulla legge elettorale. Il quadro non è certo chiaro neanche nel centro-sinistra. Nichi Vendola correrà alle primarie per scegliere il candidato premier. Accetto la sfida, annuncia Vendola, per scacciare il fantasma del Monti Bis e per trasformare le primarie da ennesima faida di partito ad occasione di svolta per il paese. Scelta questa del leader di Sella, accolta favorevolmente da Bersani. Contento, si dice, perché il sì di Vendola gli eviterà di andare alla conta con Matteo Renzi. Perplesso il centrista Casini, che, sue parole, si definisce inorridito dalla candidatura di Vendola. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Il punto di Stefano Folli. Se, come si dice, il buongiorno si vede dal mattino, non c'è molto da sperare dalla futura alleanza di governo fra Bersani, condizionato da Vendola, e Casini, alla ricerca di uno spazio per il suo centro. Se il centrosinistra dovrà vivere sull'alleanza fra questi due personaggi, le avvisaglie ci dicono che avremo contraddizioni, contrasti, incomprensioni. La polemica di ieri è significativa a riguardo. Si dirà che tutto si aggiusta con un'equa distribuzione di poltrone, ma è proprio il contrario. Oggi gli italiani si attendono ben altro da chi dovrà governarli nella prossima legislatura. Se i politici pensano di riproporre le bizze e le spartizioni del passato, dimostrano di avere capito poco. Quanto a Vendola, la sua candidatura alle primarie finirà forse per aiutare Bersani rispetto a Renzi, ma al prezzo, appunto, di condizionarlo sulla sinistra e in funzione anti-Monti. Legittimo, ma ciò renderà ancora più difficile presentare all'opinione pubblica e all'Europa una credibile proposta di governo. Sono le 13:13, adesso parliamo di calcio. Buongiorno a Carlo Gente, ciao Carlo. Ciao Enrico, buongiorno a tutti. Allora, parliamo di calcio, ma non di quello giocato. Abbiamo messo assieme due notizie di oggi. Partiamo dalla prima, che riguarda il calcio scommesse. Che cosa è successo? Andrea Masiello, ex calciatore del Bari, uno dei pentiti, ha patteggiato la pena, 1 anno e 10 mesi di reclusione per associazione a delinquere e frode sportiva, al termine delle inchieste baresi sul calcio scommesse. Mi sembra una notizia importante, ma non una notiziona. Più interessante è l'altra. Sì, l'altra notizia, esatto, riguarda alcune indagini che coinvolgono FIGC e anche Napoli. Dunque, Guardia di Finanza, che su mandato della Procura di Napoli ha eseguito questa mattina una serie di acquisizioni di documenti nelle sedi, appunto, della Federcalcio e del Napoli a Roma, rispettivamente, e a Castel Volturno. I finanzieri, su mandato della Procura di Napoli, hanno acquisito documenti relativi alle procedure di acquisto e cessioni di diritti di prestazioni sportive di calciatori, quindi documenti relativi alle compravendite di giocatori e ai rapporti con gli agenti e alle relative movimentazioni finanziarie. I magistrati hanno disposto l'acquisizione di bilanci, contratti di atleti tesserati, mandati ai procuratori, modelli depositati presso la federazione, garanzie e pagamenti relativi agli ingaggi, eccetera. Quindi vogliono vederci chiaro sulle modalità di campagna acquisti, di gestione del club. Mi sembra una notizia abbastanza interessante, forse un po' allarmante per il Napoli. Vedremo se i conti saranno a posto. Esatto, vedremo poi gli sviluppi. E concludiamo in un secondo dicendo che naturalmente ci sono anche le partite di calcio. Ieri ce n'è stata una importante, questa sera un'altra, ne parlerai alle 14. Sì, esatto, in tutti i convocati. e naturalmente stiamo parlando di Juventus e di Milan che gioca questa sera. Adesso parliamo della città di Milano perché è polemica per la giornata di vera emergenza che si è verificata ieri con lo sciopero dei mezzi di trasporto pubblico locale. Questo è l'argomento della puntata di oggi di Italia in Controluce, in onda alle 13.30, ma vi anticipiamo alcune notizie, alcuni elementi in diretta con Maria Luisa Pezzali. Buongiorno. Buongiorno Enrico, buongiorno agli ascoltatori. Uno sciopero così non è da paese civile, titola oggi in prima pagina il Corriere della Sera con un commento a firma del vice direttore Gian Giacomo Schiavi, che sarà nostro ospite in diretta. Cercheremo di capire che cosa è successo. Lo ricordiamo, migliaia di persone sono rimaste bloccate in una galleria della metropolitana per 40 minuti. Ci sono stati malori, scene di panico, 8 persone alla fine sono state trasportate in ospedale. Cercheremo di capire soprattutto chi ha sbagliato. La Lega parla di situazione da terzo mondo e chiede la testa del presidente di ATM, la società che gestisce i trasporti milanesi. Le responsabilità vanno accertate, ci ha detto il consigliere comunale gruppo PD Roberto Biscardini. Sentiamolo. Non si capisce come mai, se un cittadino, pur per sbaglio, lì non l'ha fatto certamente per sbaglio, ha azionato una leva per bloccare una porta, poi si blocca la porta per ore e ore e 30.000 persone, sono quasi una città intera, rimangono ferme in pochi chilometri della metropolitana sottoterra. Ecco, questo mi sembra il punto fondamentale. Non capisco come mai non si è potuto intervenire. Credo che bisogna accertare assolutamente le responsabilità. Intervista completa tra poco dunque in Italia in Controluce, Enrico. Bene, grazie a Maria Luisa Pezzali che troveremo appunto tra poco. Riprendiamo questa edizione di GR24 con un paio di notizie che arrivano dall'estero. Come avete sentito poco fa dai nostri titoli, 40 persone sono rimaste uccise tra militari e civili nella raffica di attentati con un'autobomba, con alcune autobomba compiuti oggi nella città di Aleppo. E un'agenzia internazionale ci informa che ci sono scontri tra polizia e manifestanti in corso a Teheran durante una protesta per il crollo della moneta locale, il rial. Adesso parliamo della crisi economica, perché è vero che l'euro tiene rispetto al rial iraniano, ma i nostri problemi continuano ad esserci. Questa mattina ne ha parlato il ministro Grilli alla Camera in una riunione che si è tenuta in prima mattina. Sentiamo il servizio. La crescita è una parola magica e tutti vorrebbero la bacchetta, ma la bacchetta magica non c'è. Usa parole prudenti il ministro dell'economia Vittorio Grilli durante la sua audizione in Parlamento. Ammette che l'economia del nostro paese stenta a decollare e sottolinea come quella del rilancio della crescita rimanga sempre una urgenza per il governo. Tuttavia, un accenno di ripresa dovrebbe cominciare a vedersi già a partire dal 2013. Chiaro che il momento congiunturale mondiale è molto complesso perché ci sono molte incertezze, non solo in Europa, quindi legate anche alle economie asiatiche, all'economia americana, quindi, però noi condividiamo questa progressiva riaccelerazione dell'economia nel prossimo anno, nella seconda metà, quindi speriamo proprio che sia così. Dai prossimi mesi, annuncia poi Grilli, saranno attivati strumenti per la valorizzazione e dismissione del patrimonio dello Stato, sia degli immobili sia delle partecipazioni pubbliche, ma non ci sarà nessuna cessione di partecipazioni in Eni e Enel. Alessandra Schepisi, Radio 24. Sole 24 ore, Roma. E a proposito della crisi dell'Eurozona, gli occhi rimangono puntati sulla Spagna in una giornata in cui la borsa, almeno a Milano, è leggermente positiva in questo momento, più 0,25%, ma di Spagna parliamo con Luca Veronese per capire che cosa sta succedendo, se è vero o non è vero che la Spagna potrebbe nel weekend, come si dice un po' da alcuni giorni, chiedere aiuto all'Unione Europea. Luca, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Sì, continua a trascinarsi la crisi spagnola, è la maggior causa di tensione su tutti i mercati europei. E Rajoy, il premier spagnolo, però ha guadagnato tempo, riesce ancora a guadagnare tempo, avrà tempo forse fino a fine mese, perché Moody's, l'agenzia di rating americana, ha deciso di spostare entro fine mese la revisione del rating spagnolo. E l'altra notizia è che anche con le regioni Rajoy è riuscito a spuntare una specie di accordo, di tregua, diciamo così. Certo è che i problemi restano tutti lì e forse il tempo non giocherà a favore della Spagna. Restano lì i problemi delle banche che si stanno ricapitalizzando a fatica, restano lì i problemi sul deficit legato quindi alla spesa pubblica e di nuovo alla spesa delle regioni. Una cosa è certa, lo ha detto a Madrid il commissario agli affari economici europei, Olli Rehn, la Spagna, per avere il salvataggio che prima o poi forse dovrebbe arrivare, dovrà certamente rivedere il quadro del sistema pensionistico, e questa sarebbe davvero per Rajoy l'ultima sconfitta, perché ha sempre promesso che mai avrebbe toccato le pensioni. Grazie a Luca Veronese per essere stato con noi. Sono le 13:21 minuti, chiudiamo questa edizione di GR24. Grazie a Fabio Cantadori che si è occupato della parte tecnica, edizione curata e condotta da Enrico Pagliarini. GR24 torna alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini. Promo 24. Una notizia riservata ai commercialisti. La professione è in continua evoluzione, l'attività quotidiana è costantemente sotto pressione ed i clienti hanno sempre nuove esigenze. Lo studio non può continuare con vecchi strumenti software se vuole mantenere profittabilità, crescita ed elevati livelli di servizio. Business Pass, la soluzione cloud di Passepartout, elimina la necessità di server, copie e aggiornamenti, riduce i costi, organizza lo studio in modo efficiente, permette di offrire ai clienti nuovi servizi collaborativi online, anche con tablet e smartphone. Business Pass, la soluzione cloud di Passepartout. Per saperne di più, numero verde 800 41 42 43. Peugeot ama Italia e l'Italia ama Peugeot. Per il terzo anno consecutivo il primo marchio estero nelle vendite di veicoli commerciali prodotti anche in Italia. E per festeggiare Peugeot propone delle offerte immancabili su tutta la gamma dei veicoli commerciali. Risparmi fino a 15.000 euro. E in più un finanziamento business TAN 2%. Inizi a pagarlo nel 2013 ma scarichi l'IVA subito. TAEG 3,50%. Offerta valida su tutti i veicoli immatricolati entro il 30 novembre salvo approvazione Bank PSA Italia. Vai su peugeotprofessional.it. Le tecnologie hanno cambiato per sempre il nostro modo di lavorare. A Fiera Milano City dal 17 al 19 ottobre ti aspettano Cisco, Dell, Fujitsu, Google, HP, IBM, Intel, Microsoft, Olivetti, SAP, Telecom Italia, Vodafone, Zucchetti e le migliori School of Management. SMAU, i protagonisti dell'innovazione, insieme, a disposizione della tua impresa. GR Spettacoli. Buongiorno da Marta Cagnola e dalla Roma Fiction Fest. In apertura i dati d'ascolto che vedono ancora una fiction a trionfare ieri sera in televisione. La puntata finale di L'Onore e il Rispetto 3 è stata seguita su Canale 5 da ben 6.600.000 spettatori, pari al 24% di share. Su Rai 1 il film TV Raccontami una storia con Lino Banfi ha portato a casa l'11%. Ha fatto meglio Ballarò su Rai 3, che ha totalizzato il 15,89 con 4.269.000 spettatori. E L'Onore e il Rispetto 3 è finora il più grande successo di ascolti della stagione per Canale 5. Ieri a Roma, autentico bagno di folla al femminile per il protagonista Gabriel Garco, che nell'incontro con il pubblico del Fiction Fest ha spiegato perché non ha detto sì a Hollywood. Sì, ma perché le proposte che mi hanno fatto erano bruttine. Qui so quello che ho. In America sicuramente è un piatto molto allettante, il piatto di Hollywood, però se ci devo entrare, cioè se devo sedermi a tavola con loro, voglio sedermici da capotavola, non come ospite così. E poi uno dei desideri più grandi che avrei, sì, è lavorare a Hollywood sicuramente, perché è una bella esperienza. Il mio più grande desiderio è quello che il cinema italiano tornasse ad essere quello che era una volta, che usciva nel mondo. Abbiamo tutte le possibilità per farlo, perché no? Ieri sera al Fiction Fest, anteprima di Black Mirror, bella e inquietante miniserie inglese in 3 puntate, andranno in onda tutte insieme il 10 ottobre su Sky Cinema 1. Il direttore di Sky Cinema, Margherita Amedei. Sono 3 storie autoconclusive che non hanno un legame narrativo tra di loro, ma solo un unico tema conduttore, che è il mondo dei media. Il mondo dei media e anche il potere che la tecnologia ha nel modificare o nel modellare quelle che sono le nostre vite. Partiamo con un episodio che è molto, molto forte, che è quello che abbiamo visto stasera al Fiction Festival, ma consiglio di vederli tutti e tre perché ognuno ha un'idea narrativa davvero particolare. È un prodotto forte, è un prodotto sicuramente disturbante, ma ci piace farlo vedere per primi ai nostri abbonati. Spazio anche alle web series. Il titolo è Kubrick, una serie porno, ma non è vietata ai minori. È una web series comica che sarà da lunedì su YouTube e racconta la storia di tre registi in erba che per trovare lavoro si avvicinano a un genere che non avevano considerato. L'ideatore Ludovico Bessegato. Quando si affrontano i tabù, le occasioni comiche aumentano enormemente, e in più avevamo anche la certezza che, essendo un tabù, fosse un argomento affrontato meno di altri argomenti, e quindi è stato molto divertente scavare insieme agli autori, insieme agli attori, tutti i modi possibili per sfruttare questo tabù, cercando, come ho scritto, di evitare però i luoghi comuni, le battute più scontate, ma di darne una versione un pochino più rotonda. Chiudiamo con una notizia che riguarda il cinema. Ve lo avevamo anticipato nei mesi scorsi, ora però è arrivato il momento. Da domani si cambia per i film in sala. Le uscite settimanali arriveranno il giovedì. Un anticipo di un giorno deciso da distributori ed esercenti per valorizzare le prime, estendendo il fine settimana. E per il GR Spettacoli è tutto. Da Marta Cagnola ancora l'augurio di una buona giornata.